fotografie. E quando vedo le scie delle barche in questo mare, carpe diem, domani le tue bugie non le voglio più ascoltare. La mia anima canta, è una camicia bianca che mi sventola addosso. Stanotte saremo due stelle del cinema. Italo-americano, dammi un bacio su un taxi cabrio, un bacio che sarà per te, sarà per te, sarà per te. Baby, I love you, nene, ti amo, non lo so se ti suonerà il mio melodico, ma stanotte ti dedico. Questa casa dritta, io con te vorrei ballare salsa, tipo soli soli sulla rambla. Maria Callas canta. Cosa vuoi davvero, soldi o libertà? Che ti saluti dal balcone alla città. L'eleganza viene dal basso come il jazz. Stanotte saremo due stelle del cinema. Italo-americano, dammi un bacio su un taxi cabrio, un bacio che sarà per te, sarà per te, sarà per te. Baby, I love you, nene, ti amo, non lo so se ti suonerà il mio melodico, ma stanotte ti dedico. Anime core, anime core, anime core, anime core. Italo-americano, dammi un bacio su un taxi cabrio, un bacio che sarà per te, sarà per te, sarà per te. Poi c'è Yeti, siamo una cosa sola, siamo due facce della stessa luna, come sta collana che porta fortuna. Brrra, usa marijuana, non si danna dentro a nessuna. Tu stai con me, puoi far l'amore, io voglio che te anime core. Italo-americano.